sono ancora detenuti, così come è detenuto Marco Kamenisch, un anarco insurrezionalista catturato nel 91 che per solidarietà nei loro confronti nei giorni scorsi ha cominciato uno sciopero della fame, e dunque una pista proprio anarchica contro l'ambasciata svizzera. Mentre in per quel che riguarda l'ambasciata cilena c'è la vicenda di Mauricio Morales, che era morto nel 2009 vittima a Santiago dell'esplosione di un estintore pieno di polvere nera che trasportava per piazzarlo davanti alla scuola della gendarmeria. Oppure rivendicano anche l'uccisione di Lambros Funtas, ucciso ad Atene dalla polizia scorsa. A Morales sarebbe dedicato proprio ieri l'attacco contro l'ambasciata del Cile. Certo, però c'è timore a Roma per questo, per questi pacchi bomba, certo, davvero impressionanti, arrivati ieri a scuotere davvero la vigilia del Natale. Voglio chiudere con la Gazzetta dello Sport. Bene sì, sempre l'Inter in primo piano, no? I miei amatissimi cugini dell'Inter, insomma, da buoni vicini di casa, da buoni cugini, ci si vuole molto molto bene, soprattutto adesso che ci state fregando, Leonardo. Buon Nataleo, invece, questo è il titolo della Gazzetta, invece che Buon Natale, Buon Nataleo, e c'è la foto di Leonardo. Io l'ho detto, ma che fa Leonardo? Va. Io non lo considero un traditore, però c'è già il tormentone da parte di molti milanisti che dicono fa bene, altri che dicono fa male. Sta di fatto che Benitez è stato mandato via, come ormai era abbastanza scontato, come tutti i segnali davano questa direzione. Benitez via, arriva l'ex milanista. Buon Nataleo, Leonardo, titolo della Gazzetta. Mentre il Corriere va a fare un po' i conti, il bingo di Benitez. La prima pagina dello Sport, a pagina 60. Sapete Benitez in questi 185 giorni all'Inter e una coppa vinta quanto ha guadagnato? 3,4 milioni di euro. Il che vuol dire una media di 29.347 euro al giorno. 29.347 euro al giorno. Filippo Aureggi non mi guarda, hai capito? 29.347 euro al giorno. No, non per te, per Benitez. Buon Natale a Benitez. Il GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20 minuti. Voglio salutare il vice sindaco di Roma e assessore al turismo, Mauro Cutrufo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, la notizia che sta sui giornali è che arriva, so che già il termine tassa non vi piace, però questo viene posto, la tassa sui turisti dal 1 gennaio, la città eterna. Tassa ai turisti. Vice sindaco, che succede? Mi dispiace contraddirla, ma non è una tassa. Non è una tassa. Non è che a noi non ci piace chiamarla così, è che tecnicamente non lo è. È un contributo, è scritto nella legge, un contributo di soggiorno che va a contribuire al pagamento dei servizi della città e per il 5% alla promozione del turismo nel mondo di Roma, ovviamente. Quanto si pagherà di questo contributo? Dunque, un turista che viene a Roma e dorme ovviamente nella città, per ogni notte dormita, per un massimo di 10 notte, io aggiungo magari, perché si trattiene mediamente un turista 2 notti e mezzo a Roma. Quindi il turista medio cosa pagherà? Se sta in un albergo ad 1 stella, 2 stelle e 3 stelle, paga 5 euro per le 2 notti e mezzo. Se sta in un albergo 4 o 5 stelle, pagherà 8 euro. 8 euro. Cioè, quando viene detto sui giornali 1 euro al giorno per i campeggi. Ah, ok. Per i campeggi, per tutto il turismo all'aria aperta. È gratuito per gli ostelli della gioventù, è gratuito per l'infanzia, cioè i bambini fino a 10 anni, sì. È gratuito per i parenti degli ammalati che sono a Roma per quel motivo e quindi stanno in albergo per assistere i malati. Ci sono una serie, diciamo così, di gratuità. Diciamo che mi pare che il massimo che uno possa pagare è 3 euro al giorno per al massimo 10 giorni. Mettiamo, uno sta 10 giorni a Roma in un albergo a 5 stelle, paga 3 euro a notte, quindi 30 euro. Questo è il massimo? Questo per 10 giorni. Per 10 esatto. giorni. Questo è il massimo del massimo possibile. Il massimo del massimo possibile. Vabbè, no, bada che una stanza di un 5 stelle a Roma va dalle 300 alle 800 euro a notte. Sì, quindi il dice 3 euro in più. Il massimo possibile paga 30 euro per stare però 10 giorni, che sarebbero 8.000 euro. Senta, un po' nel mondo già c'è questa, Parigi, New York, Berlino, Amsterdam, Madrid. Intanto quanto è il budget di previsione? Cioè quanto pensate come Comune di Roma di poter raccogliere? Dai 60 agli 80 milioni. Dai 60 agli 80 milioni. E adesso voglio dare un annuncio ai cittadini romani se lei me lo consente. Sì, lo faccio. Il turismo a Roma incassa 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro, 14 mila miliardi delle vecchie lire ogni anno. 700 milioni sono di IVA, vanno direttamente nelle casse dello Stato, noi non le vediamo proprio. Gli altri 6 miliardi e 3 vanno nelle tasche, giustamente, meno male che è così, degli imprenditori, degli operatori e dei dipendenti, tutti insieme circa 250.000, del comparto del turismo. Certo. La città di nuovo, e io e lei che non ci occupiamo di turismo dal punto di vista imprenditoriale o non siamo dipendenti di questo settore, non abbiamo nessun vantaggio, ma abbiamo 13 milioni di ospiti ogni anno che sviluppano 28 milioni di presenze. Io poi, guardi, vice sindaco, la chiamo da Milano, sto a Milano, quindi proprio... Ah, maggior ragione. Io proprio maggior zero, ragione. Zero, zero euro. Quindi, detto questo, finalmente i cittadini romani, anche gli altri 2 milioni e 700 mila, avranno un aggio da questa visita dei turisti. Ecco, perché come vengono investiti? Cioè questi 60-80 milioni, voi che li utilizzate a fare che? Allora, il 5% di questi per la promozione di Roma nel mondo, il resto va tutto nella spesa corrente, c'è qualcuno che ha detto pagano i debiti della giunta precedente, no, a parte che quelli sono 12 miliardi, quindi insomma anche se sono tanti 80 milioni, non sono quelli, è lo Stato che ci dà 300 milioni all'anno e 200 li reperiamo noi nel nostro bilancio ogni anno fino al 2042 per pagare il debito delle giunte precedenti. Mentre gli 80 milioni di euro di cui parliamo vanno tutti nel bilancio per la spesa corrente e quindi per i servizi, per il miglioramento della città. Perfetto. Senta, sindaco, vice sindaco, vice sindaco, so che anche Firenze e Venezia dice, ora è iniziato Roma, se sentite di avere tracciato una strada, perché Venezia la vuol fare, Firenze la vuole fare, Renzi è andato pure da Berlusconi per parlare. Guardi, io con il sindaco di Venezia e di Firenze ho un protocollo d'intesa con queste due giunte per fare diverse cose insieme. Questa potrebbe essere una, io ho già cercato due o tre volte Renzi, ancora non mi ha richiamato, esattamente per questo motivo, perché possiamo mettere in campo un'azione. E sapete perché? Cioè, ovviamente c'è sempre una logica dietro le cose. Perché Roma, Venezia e Firenze? Perché Roma, Firenze e Venezia, di tutto l'incoming, di tutti i turisti che vengono in Italia, ospitano il 35% di tutti coloro che vengono in Italia. Tre città che da sole fanno il 35%. Roma, di queste tre, fa il 50% dell'intero. Allora è chiaro che non c'è Palermo, che non c'è Chieti, che non c'è Ravenna, che per carità... Oppure sì, sì. Milano, ci sono, dove lei abita, ci sono le tre sono grandi città, ma per esempio a Roma 10 volte i cittadini sono le presenze turistiche, quindi alla fine dell'anno abbiamo vissuto la città noi 3 milioni e 30 milioni di turisti. Senta, vice sindaco, nel salutarla, ringraziarla, vabbè, poi tutti i dettagli li trovate, immagino, perché dal 1 gennaio si parte e lei, insomma, lo chiama un contributo, però una tassa, no, ma non è che si può, non è un'offesa, dice, una tassa. No, non è un'offesa, semmai sarebbe più corretto dire la tassa di scopo. Tassa di scopo. Tassa di scopo, però tecnicamente realmente non è una tassa, è un contributo. Sì, un contributo. insomma, contributo obbligatorio per chi dorme a Roma. Fino, si paga fino, ricordiamo, fino a 10 notti massimo, da un minimo di 1 euro a un massimo di 3 euro a notte. Quindi massimo del massimo del massimo, se uno sta 10 notti in un albergo di lusso, paga 30 euro. Se sta 30 notti, no, sempre 30 euro. Vice sindaco, la ringrazio, buon Natale. 8.000 euro e 30 euro alla città 30 di euro. Buon Natale, ovviamente. A lei, grazie. Altrettanto, a tutti. Arrivederci. Mauro Cotruffo, vice sindaco di Roma, assessore al turismo, ci ha spiegato questa tassa di scopo o contributo dal 1 gennaio, quindi fate il Capodanno a Roma, che ne so, vi svegliate a Roma, e il 1 gennaio nell'albergo dove risiedete avrete anche questa tassa di scopo. 1 euro al giorno, 2 euro al giorno, 3 euro al giorno massimo da pagare. Allora, noi parliamo di Natale e consumismo nel nostro sondaggio. Vi chiediamo, ma secondo voi il consumismo, la corsa ai regali e non solo i regali, offende il senso del Natale? Votate su radio24.it il nostro sondaggio, bianco o nero ci trovate, oppure se volete intervenire in diretta 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Alle 8.32 minuti, eccoci qua. E allora vi chiediamo, questo è il nostro sondaggio, siamo alla vigilia di Natale, il consumismo secondo voi offende il senso del Natale? Ieri il Cardinal Martini, nella sua risposta ai lettori, nella rubrica che tiene consueta sul Corriere della Sera, ha detto un pochino sì. Ma questo lo chiediamo a voi, bianco o nero, oppure 800 24 00 24. Oggi spazio tanto agli ascoltatori, se ci chiamate, chiamateci. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Oh, intanto il mio regalo di Natale io l'ho già ricevuto. E perché oggi costringo agli straordinari il nostro Oscar Giannino, che deve sedersi, siediti, perché sennò Pippo dice che non si sente. Oscar, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti, anche a Pippo, che dagli ordini sempre, dagli ordini Pippo. Allora, quando io leggo ieri il Cardinal Martini che dice che la Pasqua mi attrae di più e che quasi mi dà fastidio parlare del Natale, perché Natale fa emergere le storture della politica, la gravissima crisi economica che stiamo attraversando, le violenze quotidiane fisiche e psicologiche. Quando si parla di consumismo, il Cardinal Martini dice, io un pochino mi inquieto. Oscar, tu no? Perché ti inquieti? No, mi inquieto perché se il Cardinal Martini, insomma, che del Natale se ne intende un pochino più di me sicuramente. Lo so, ma questo è un filone tradizionale molto forte della spiritualità più elevata, che non ama i riti della modernità e del consumo del mercato. E allora ti leggo un'altra cosa. Oggi in prima pagina del giornale, Marcello Veneziani, che certamente non ha la profondità religiosa e spirituale del Cardinal Martini, e che dice: mi è venuta un'idea, all'apparenza perversa. E se Babbo Natale, anziché portare doni, portasse via i troppi oggetti che soffocano i bambini? Se la sua missione oggi fosse inversa rispetto al passato, calarsi dai camini, sottrarre i regali, dolciumi, giochini elettronici, mostri, telefonini precoci, video, vestiti griffati, inutili oggetti di cui siamo invasi. Pensate che bello se la sua gerla non servisse per distribuire droni, ma per la raccolta indifferenziata, il prelievo del superfluo. Però vedi, questo io mi metto invece nei panni di coloro per i quali il Natale è sempre stata una speranza. Questi sono le lamentele di chi ha troppo, cioè pochi. La verità è che il Natale, per tanti, tantissimi che vorrebbero di più e hanno ancora poco, è la speranza di averlo, quel superfluo di cui Veneziani è carico. Quindi, per cambiare costumi, a Natale consumate di più. Consumate di più, eccolo qua. Ieri Vittorio Messori, in prima pagina del giornale, viene riportato questo articolo, dice: non vergognatevi del lusso, è una virtù cristiana. Su questo sono commessori, sono commessori tutta la vita. Sei commessore. Che ne pensate? 800 24 00 24. Intanto io voglio salutare anche Marco Lucchini, che è direttore della Fondazione Banco Alimentare. Buongiorno Lucchini. Buongiorno a voi. Allora, intanto, questo è un aspetto che sicuramente sul quale siamo tutti d'accordo, immagino anche te Oscar, e quando io ho letto che da qui al 6 gennaio saremo capaci di buttare, secondo le stime, quanto, Lucchini, ce lo dice lei? Le stime? Ma io dico che è inutile contare i morti prima che scoppi la guerra. Questa è la prima cosa che dico. Però ho letto questa cifra, 500.000 tonnellate di cibo, io non so neanche quantificarlo. Credo che siamo in periodo in cui gli oroscopi sono un argomento molto gradito, per cui si fanno previsioni, ma sono numeri che lasciano un po' il tempo che trovano. Forse a mio parere, anzi, favoriscono un po' più un Natale. Si combatte il Natale consumistico, io combatterei anche il Natale ideologico, cioè che per forza bisogna. Natale è una festa, hanno cominciato i pastori e le magi 2000 anni fa a portare dei doni, ed è un segno forse, lo spreco, se vogliamo parlare di questo, perché è un segno di solitudine, questa è la gravità, perché quando uno ha compagnia, ha amici con cui condividere, anche se avanza qualcosa, si ritrova il giorno dopo e finisce, se invece è solo, certo che allora lì diventa il dramma. Questo è il tema dello spreco. In ogni tra l'altro Oscar diceva, devo dire Oscar, intanto i nostri ascoltatori, ma sai, la pensano sempre, quelli di bianco-nero, la pensano sempre contrariamente a te, ti odiano, cioè, dicono il consumismo si offende il senso del Natale, per il 71%, quindi intanto beccati questo. Ma come si offende il senso del Natale se quello è nato in un mangiatoio perché l'albergo era pieno? Tanto per cominciare, qual è il senso del Natale? C'era un eccesso di domanda rispetto all'offerta la notte di Natale, la mangiatoia deriva di lì, e ragazzi, con alberghi un pochino più attrezzati lo facevamo nascere meglio Gesù Bambino. Ho capito, però adesso tu mi snocciolerai quanto sono la percentuale di consumi a Natale, perfetto, su quanto si regge l'economia del consumo a Natale in America e in Italia, così tu mi snoccioli. Quindi il lavoro di voi tutti, ragazzi, negli Stati Uniti, nelle 5 settimane, sole 5 settimane prima di Natale, cioè dal Thanksgiving a Natale, si fa più del 40% dell'intero consumo degli Stati Uniti, cioè il paese che insomma adesso dopo la crisi c'è l'Asia, però insomma è il paese di riferimento, ed è così anche da noi. Per Natale e nella stagione dei saldi di fine anno eccetera, è la possibilità di ridare un segno a una stagione di consumi interni che invece fletteva, era negativa, per tentare di pareggiare. Questo è quello che bisogna sperare che avvenga in questi ultimi giorni di Natale. Ma quindi non c'è niente di male a sperarlo. Anche ieri Vittorio Messori lo scriveva, e che dobbiamo fare? Si vendono i gioielli perché gli orafi di Valenza non devono essere supportati? Ma le Porsche, le Lamborghini non sono prodotti che vanno supportati, però... Ma scusate, però questa è una scelta, caro Alessandro, capziosissima. Come Messori, se sotto gli alberi di Natale Messori, chi ci ascolta avesse trovato le Porsche e la Lamborghini, io me lo augurerei per loro. Io vorrei un Natale in cui c'è una Porsche per tutti, ma non è questo il punto. Non stiamo parlando di quello, si usano apposta dei simboli chiaramente taglienti, perché non sono nella nostra vita quotidiana, per dire spiritualità. La spiritualità è quella di consumare pensando a chi altrimenti ci rimette il posto di lavoro, non per il gusto del superfluo. Quindi anche veneziani sbaglia. Ma no, veneziani ha la casa piena, e a quel punto doni, compri e doni. Chi ha deve fare così. Io un po' lo faccio. Allora ti leggo quello che ha risposto Corrado Augias, che tra l'altro poi dopo faccio una parentesi. Corrado Augias doveva essere con noi questa mattina. Sai dov'è? Dove è dato? In palestra. Perché? Abbiamo chiamato ieri, Corrado Augias si prepara e fa bene agli eccessi alimentari di stasera. Mi piacciono il presepio, scrive Corrado Augias, il bue, l'asino, i re magi, la stella, una leggenda gentile piena di episodi che fanno sorridere i bambini. Detesto invece la deriva consumistica del Natale. Credo che andrebbe contrastata a costo di farsi nemici i commercianti che a Natale fanno il 30-40% del fatturato. Certo che sono gli stessi. Dopodiché voglio vedere i suoi diritti editoriali così tanti liberi, lui che ne fa, se veramente pratica l'economia del dono. Ma non è una critica. Dico che San Tommaso, uno dei grandi santi della cristianità, c'è un passo della sua Summa Teologica in cui apposta ci sono le 5 ragioni a proposito dei commercianti per il quale il buon cristiano deve considerare fondatissimo il profitto del commerciante. Sai quali sono? Le dico brevissimamente. Primo, la vita della famiglia del commerciante. Secondo, remunerare il lavoro del commerciante. Terzo, donare, perché solo se fai i soldi li puoi dare. Me li sto segnando. Terzo, donare. Quarto, aumentare i posti di lavoro. Lui non diceva così, ma insomma più gente lavora nelle botteghe è meglio. E quinta cosa, diceva San Tommaso, aiutare l'intero paese. Pensate, San Tommaso in 5 ragioni dava le 5 ragioni per cui il profitto del bottegaio, quello tanto odiato dall'Agenzia delle Entrate come da Augias, per San Tommaso era utile alla cristianità. Marco Lucchini, secondo lei c'è troppo consumismo nel Natale e questo consumismo offende il senso del Natale oppure no? No, assolutamente no. Condivido molto quello che Giannino dice, e proprio spiega quello che dicevo all'inizio, cioè il Natale è un incontro dove si dona una speranza per la vita ai cristiani, ma per tutti. Quindi il tema è proprio la condivisione. Ne ho di più, penso sì, a un altro. Sì. Abbonda qualcosa, non è l'abbondanza, è un segno di vita, di speranza, di fertilità. Nelle prime anche religioni dei primi uomini l'abbondanza non è mai stato un segno negativo. Il problema è proprio quello di voler ridurre anche non solo il consumo, ma anche il desiderio di novità, di innovazione, di crescita, appunto di bene comune, perché acquistare vuol dire appunto anche permettere alla gente che possa vivere. Noi recuperiamo tutti gli anni circa 80.000 tonnellate di alimenti che non vengono venduti, ma non è che io vado dalle aziende sperando che loro falliscano una vendita per poterla dare a me, perché se loro producono bene, se lavorano bene, se vendono bene, avremo meno persone da aiutare e da sfamare tutti i giorni. Allora io quindi voglio fare l'avvocato del diavolo, faccio mio, così faccio mia la critica che un ascoltatore ci manda via sms. Ormai, caro Giannino, siamo alla morale del fatturato. No, non siamo alla morale del fatturato, siamo al fatto che il fatturato bisogna lottare perché abbia una morale, perché altrimenti non ce l'ha. L'abbiamo visto tante volte, dai casi Parmalat a tanti altri. Perché ce l'abbia, bisogna che noi tutti lo estendiamo, se ci riusciamo, e ne volgiamo una parte a coloro che non hanno. Allora, io in questo credo, quindi chi dice invece il Natale non c'entra con la spiritualità se è consumo, e un po' mi dispiace dirlo, se un buon cristiano può essere un cattivo cristiano, può essere un ariano, può essere un monofisita. Chi pensa che ci sia il bene e il male come due categorie contrapposte, solo lo spirito e l'ascesi e il bene, insomma, i padri della Chiesa l'hanno dovuto mettere spesso a posto. Credo che Augia sia più un eretico. Questo che no, un buon però, cristiano. Però vedo che infatti tu avevi giustamente il Messaggero, tu te lo sei portato, io no, l'intervista a Monsignor Fisichella. Che dice Natale di crisi e paura, ripensare lo stile di vita. Questo è un'altra cosa. Certo, ma nel ripensare lo stile di vita, secondo te non c'è anche non una riduzione dei consumi, perché dobbiamo abbattere l'economia, come dicono Augias e invece veneziani, che hanno troppa roba, questo è il punto, e non ne sanno fare un buon uso perché non ce l'ha. Però voglio dire, la questione dello spreco, i 10 regali. Certo, lo spreco, ma lo spreco significa... Io quest'anno sai che ho fatto? Dico a mia figlia, vuoi la lista per Babbo Natale? Vabbè. Io intanto ti invito la figlia. Ne ho due per questo. Mi dai 5 regali, una cosa che fanno molti genitori, mi dai 5 regali e Babbo Natale ti porterà 2 o 3 regali. Se non mi dai 5, cioè il senso anche della misura, il senso... Io invece faccio il contrario, io che non ho figli, sì, e purtroppo non ho moglie, magari io compro tantissimi regali, io devo ammettere, e li distribuisci, spendo tantissimi soldi e do tantissimi regali a sorpresa a gente che non se l'aspetta. Io adesso, può sembrare propaganda, ma è così tra i miei collaboratori, però funziona così e sono contento di questo. In più passo un pezzo di Natale, cioè, con i bambini malati, e li copro di cose che e non credo di comportarmi male, non credo di sedurli col consumismo, però io spendo un pacco di quattrini e penso di fare bene. Allora sentiamo Carlo da Verona, il primo ascoltatore, 800 24 00 24. Il consumismo offende il senso nel Natale. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Dica. Oscar Giannino è un grande. Beh, ma questo lo sottoscrivo sempre e comunque. Oscar Giannino è un grande, si sa. Dica. Ecco, poi anche il titolo della trasmissione, bianco e nero, io sono juventino, quindi sono in linea. Vabbè, insomma, era andato benissimo finora, Carlo, su adesso, non si deprima così, dica. Ecco, stia a sentire. Allora, io sono d'accordo che il Natale, il consumismo non offende il Natale, no? Stiamo scherzando, non è questo il punto. Anche perché offende di più il fatto che magari un lavoratore dipendente venga tassato a dicembre al 51% dallo Stato. Bravo! Questo era Oscar Giannino, era Oscar Giannino. E quindi insomma lei non trova che questa corsa a regalo spesso anche inutile, bisogna dire, a volte. Allora, tutta la vita noi lavoriamo per pagare le tasse, per avere la sanità, per poter avere una speranza di vita decente, per poter anche fare del bene, perché poi in tanti col 5 per 1000 facciamo delle cose, eccetera. Sì, no? Sì. Se non hai a Natale il minimo la possibilità di fare un qualche cosa anche di gratificante, se vuoi, dal punto di vista un po' edonistico, no? Allora veramente diventa una vita che non vale neanche la pena di viverla. Beh, insomma, adesso sì, va bene. Comunque, Carlo, non si abbatta così. Comunque, io la ringrazio per questo suo contributo. Devo dare le informazioni sul traffico, ma prima voglio dire che ci scrivono dall'Istituto degli Studi Tomistici di Modena, grandissimo Giannino a citare San Tommaso. L'aspettiamo a Modena. Silvia ti aspetta a Modena dell'Istituto degli Studi Tomistici di Modena. Mentre c'è chi dice San Tommaso negava l'anima alle donne, quindi occhio a citare. Che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, naturalmente. Tanto Maso non è. Votava Berlusconi, qualcuno dirà Tanto Maso era ti per devo dare una carezza e un colpo, è così il traffico. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Allora, il consumismo bianco o nero. Bianco o nero, parlo anche sulla sigla. Il consumismo offende il senso del Natale. Lo chiedo a Fabrizio da Roma. Buongiorno. Fabrizio. Buongiorno a voi. Che dice? Ho piacere di intervenire, vi ringrazio. Vorrei dire soltanto che secondo me non c'è parentela necessaria almeno fra consumo e consumismo. Si può consumare ed essere consapevoli di tutta l'importanza che questo ha per l'economia senza avere l'atteggiamento interiore della priorità del consumo come prima sfera dell'esistenza. E sono due cose diverse. Sì, consumare è l'atteggiamento interiore. Sì, dice il consumismo è l'aspetto deleterio del consumo, la posso tradurre così, Fabrizio, la sua posizione. Sì, insomma, è un atteggiamento morale che non ha a che vedere con la razionalità con cui va collocato il consumo nella nostra dimensione collettiva e produttiva. Perfetto. Attuale. È chiarissimo. Matteo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo salutare tutti, volevo salutare lei, il dottor Giannino, che seguo sempre. Volevo dire che secondo me il consumo, giusto per seguire il mio collega radioascoltatore di Roma, non offende proprio nessuno. Assolutamente, non offende Natale, non offende niente, anzi fa felice chi riceve il frutto del consumo. E il problema della spiritualità, il problema del Natale è un problema che si sta perdendo il senso del Natale come rito religioso, ma questo non è una conseguenza del consumo, è un altro aspetto. Sono cose separate. Ma non dice che c'è un legame su questo? Non so, Oscar, no. Secondo te non c'è un legame sulla perdita del senso spirituale del Natale e parallelamente il significato? Perché Pasqua, per esempio? No, tanto è vero che il personaggio che mi evoca le parole di Abjas, cioè Scrooge, quello il famoso lavarone borghesone pieno di soldi che non fa un dono neanche per Natale, è l'esatta negazione della spiritualità. Abjas è Paperone Scrooge, questo è il punto. E quella è l'anima incapace di spiritualità. Qua, non è qua, è incapace, ma io lo sto dicendo con grande rispetto, perché certo. Scrooge è anche la grande virtù del risparmio borghese, però quando si eccede è lì che manca lo spirito. Informate Giannino. Che abbiamo, attenzione, il catastrofista ci ha scritto che abbiamo un pianeta solo e che è già sovrasfruttato, e se tutti consumassimo come gli americani avremmo bisogno di 5 pianeti Terra, non 2, raccontiamolo, non 3. Però ai cinesi che non devono continuare a non consumare perché sennò siamo cattivi. Sì. Forse è meglio che ci rendiamo conto che siamo in un mondo in cui tanta gente si sta abituando a consumare più, è giusto, e come al solito verranno smentiti i catastrofisti. Io vorrei chiedere a Marco Lucchini. Lucchini, ci sono tante iniziative, so che anche il Banco Alimentare lo fa per contrastare lo spreco del cibo. Ci può dare qualche qualche direttiva su come anche orientarci, non so, anche qualche informazione di servizio, siti internet, come contattare, come chi non vuole sprecare cibo e magari non sa come fare perché se lo trova lì da buttare, che può fare? Che si può fare? Guarda, noi abbiamo dato alcune indicazioni che sono di buon senso più che altro, perché a volte bisogna solo non inventarsi niente di nuovo, ma usare un po' la testa, ecco. Appunto, una, ad esempio, si fa una cena, un pranzo di Natale, banalmente al posto di servire tutto in contemporanea, servire pian piano quello che non è stato portato sul tavolo, tenerlo in contenitori, metterlo in frigo, il giorno dopo si può utilizzare benissimo, si può fare un'altra festa, un'altra cena. Non tenere fuori la roba così, appunto, e metterla al fresco è un aiuto per conservare. Ma soprattutto, ripeto, il problema non è non fare qualcosa, ma casomai fare qualcosa di più, perché è un momento anche di condivisione, di possibilità di immaginare di invitare una persona che da tempo non senti. Andare magari dal tuo parroco e dire: ma non c'è qualche famiglia, vorremmo trascorrere Natale o le feste anche con qualcuno. Lei diceva prima: mia figlia, dimmine 5, te ne do 3. A casa mia mi hanno insegnato invece: ti regaliamo un regalo in più, scegli tra quelli che ti abbiamo regalato uno da donare a un bambino povero. Quindi può fare, certo. Il problema, dico, che i consigli non sono utili se non c'è uno scopo. Se lo scopo è quello di rimanere soli e ridurre tutto, appunto, veniva citato prima Dickens in quel film, rimane solo. Allora, il problema non è il consumismo, bisogna togliere un po' questi ismi che ci hanno condizionato un po' in questi ultimi 40 anni. Il consumo è una possibilità anche di felicità, perché appunto il dono, certo, non è che è fatto per un merito. No, ma questo è chiarissimo. Intanto io voglio, ma io è un profluvio di messaggi, il trionfo di Giannino, ma io lo sapevo. Ma infatti, come il trionfo di Giannino? Certo, sono tutti polemici. Ma no, ma non è vero. Allora adesso ti leggo. Giannino bravissimo, Mariella. Giannino, leader della coalizione di centrosinistra, io lo voterei. Poi c'è una chance, poi tu ridi, vabbè, ma guarda che qui. Un saluto augurio a entrambi, ma dei sinceri riformisti. Matteo Salvini, a entrambi, Matteo Salvini. Matteo Salvini. Ma magari è un omonimo o no? No, è no, lui. No, al mio bimbo solo doni rossoneri, è lui, è Matteo Salvini della Lega. Dai. Io il grande Giannino lo inviterei a casa mia a passare il Natale, ma soprattutto. No, perché per lavare i piatti, Oscar, per lavare i piatti ci vado. Soprattutto sono questo. Sono un prete. Volevo ringraziare Giannino per quello che sta dicendo, Don Andrea. Io ringrazio Don Andrea per quello che fa tutti i giorni, ed è molto più serio di me Don Andrea quello che fa tutti i giorni. Insomma, voglio, vediamo se Ruggero c'è dalla provincia di Cremona. Chiudo con lei, dica l'ultimo ascoltatore. Salve, buongiorno. Dica. Volevo intervenire soltanto, grazie innanzitutto, volevo intervenire soltanto dicendo che ho l'impressione che ci si ricordi dei propri valori e di essere consumisti ciclicamente soltanto nei periodi tipo Natale, Pasqua, feste varie. Però potenzialmente il discorso non è cosa, diciamo, quanto consumiamo, ma dove li destiniamo. Nel senso, uno vorrebbe fare regali solidali o in qualunque caso mirati, non sprecare cibo durante le feste, questo sarebbe già meglio. Questo è un bel consiglio, va bene. Io Ruggero, no, la ringrazio. Io Oscar mi sono tenuto 3 minuti per concludere questa trasmissione. Devo farvi ascoltare un qualcosa. Il 29 settembre abbiamo ospitato dalla Nuova Zelanda, forse una vicenda di cronaca che ricorderai anche tu Oscar, Paola, medico, che attendeva con grande ansia un trapianto, era malata di leucemia, un trapianto, e l'unica compatibile al mondo era sua sorella che sta qui a Padova, e ci furono degli appelli perché la sorella decise di dire no a questo trapianto di midollo per motivi suoi, insindacabili, la paura. E io voglio farvi ascoltare quello che il 29 settembre ci disse la signora Paola, medico dalla Nuova Zelanda, che aspettava questo trapianto che solo la sorella poteva darle di midollo. Mia sorella ha accettato volontariamente di fare l'esame di compatibilità, anche se sapevamo dall'inizio che essendo due sorelle era solo il 25% di possibilità di compatibilità. E quando appunto dopo aver fatto l'esame, perché se uno dall'inizio dice no guarda io non posso, non voglio, ho paura eccetera, ok, ma fa l'esame e poi mi dice no guarda io sono compatibile ma no. Allora a quel punto in varie occasioni l'ho proprio pensato, ho detto come potrà vivere lei nel suo futuro quando col mio tipo di leucemia non è che ho molte speranze di sopravvivere, certo ovviamente lo spero, però la cosa quasi certa che invece non sarà una lunga vita, ecco come vivrà una persona questo, soprattutto se è una persona tua consanguinea. E allora io vorrei raccontare una bella storia di Natale, purtroppo siamo qui a raccontare non una bella storia di Natale, Oscar, abbiamo sentito questa voce, purtroppo la signora Paola è mancata qualche giorno fa, è morta. Oggi sui giornali c'è Ripensaci, donami il midollo, l'ultima telefonata alla sorella Paola qui, l'ultima telefonata di Paola alla sorella Laura qui a Padova, non l'ha convinta. Io credo che hai fatto bene a concludere la trasmissione su questo, perché è un tema che mi tocca un po' per i problemi che ho io. E cioè, non è una bella notizia, né si dice no, non si però è un tema che ci tocca, perché nel morire così lascia a tutti noi, secondo me, una cosa su cui riflettere. Non voglio dire una lezione, ma una cosa su cui riflettere. Tra l'altro, il titolo oggi di Libero su questa storia a me non piace: le nega il midollo, la lascia morire quando il boia è la sorella cattiva. Neanche a me piace una definizione così. Però, il problema è che anche nei rapporti più stretti, quelli interni alle famiglie, ci possono essere paure, possono esserci problemi e possono esserci, però la paura è questa, la paura di vivere, di fare vivere, e io credo che sia un po' uno dei mali fondamentali del nostro tempo, e credo che veramente, un po' mi si inclina la voce perché sono temi che mi toccano molto, io penso che tutti, a prescindere da questa sorella che adesso avrà sulle spalle una responsabilità terribile, io non la invidio, e per quanto possa sembrare strano a molti, io voglio inviare una parola di conforto alla sorella che vive, non a quella che è morta. Ma detto questo, ciascuno veramente pensi, non solo a Natale ma nei giorni dopo, a come si può dare una mano a chi è malato, soffre ed è dimenticato dagli altri, a cominciare magari dai propri parenti. E io per primo su questo devo fare autocritica, poi non riesco a avere buoni rapporti con mia madre e mio fratello, quindi figuriamoci. Va bene, ci fermiamo qui. Marco Lucchini, grazie, Fondazione Banco Alimentare, con Alessandro Longoni in redazione e Filippo Aureggi oggi in regia. Oscar Giannino rimane qui, ovviamente, perché non è che appunto lo costa. Straordinario, ma tra poco la versione di Oscar, quindi Oscar Giannino, a tra poco.